Oggi ti metto in guardia di un'altra artista, dice che non vorrei neanche raccontarti. Ma dicevi che questa roba è una cosa che sta sempre a farmi mai chiedere. Chiedi se te la paghi per una cartellina, per esempio, stai l'altro, e a questo punto si vengono, e se stai l'altro, mi sta facendo così che mi dice, faccio la fuori cosa che sono così. Io ho capito di una fuori ragione, agente di regine, appena guscio questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, fai sciacciare questa cosa, Yes.